Lettera inviata a Roma dalla città imperiale di Augusta, indirizzata a Gian Pietro Carafa, datata 10 giugno 1527. All'onorandissimo signore mio Giovanni Pietro Carafa, felicemente scampato alle schiere immonde dei barbari eretici. La notizia di sapere la signoria vostra sana e salva mi riempie il cuore di gioia e allevia finalmente la pena che in questi giorni terribili mi ha privato del sonno. Il solo pensiero del soglio di Pietro, devastato dai nuovi vandali, mi gela il sangue nelle vene. Non oso immaginare quali tremende visioni e quali pensieri di morte debbano aver colpito la signoria vostra eminentissima in quei momenti. Nessuno, meglio di questo devoto servo, può conoscere la brutalità e l'impietà dei tedeschi, soldati immondi, gonfi di birra e irrispettosi d'ogni autorità, d'ogni luogo santo. So bene che lordare le chiese, decapitare le immagini sacre dei santi e della Madonna è da loro ritenuto un merito di fede, oltre che un vero sollazzo. Ma, come la signoria vostra ha avuto modo di affermare nella sua missiva, lo scandalo non potrà rimanere impunito. Se Dio Onnipotente ha saputo castigare l'arroganza di queste bestie, scagliando su di esse la pestilenza, non mancherà di punire chi a esse ha aperto la gabbia, lasciando che dilagassero per l'Italia. Se non davanti al Santo Padre, l'imperatore dovrà risponderne al cospetto di Dio. L'Asburgo, infatti, finge di non sapere che nel suo esercito e in quello dei suoi principi si annidano intere schiere di eretici, luterani che non hanno rispetto di niente e di nessuno. Ho infatti ragione di credere che non sia stato un caso che la conduzione della campagna d'Italia sia stata affidata a Georg Frundsberg e ai suoi lanzichenecchi. Quassù essi sono ben noti per l'efferatezza e l'impietà, oltre che per la simpatia che nutrono verso Lutero. Non mi meraviglierei affatto se quello che oggi sembra il risultato indesiderato di una scorribanda di barbari mercenari domani si rivelasse il frutto di una decisione militare e interessata dell'imperatore. Il sacco di Roma indebolisce il Santo Padre e lo lascia indifeso nelle mani dell'Asburgo. Quest'ultimo ha così trovato il modo di essere a un tempo paladino della fede cristiana e secondino della Santa Sede. Non posso dunque che condividere le durissime parole di condanna e di disprezzo di vostra signoria, quando afferma che Carlo minaccia sempre più da vicino e spudoratamente l'autonomia della Chiesa e che dovrà pagare per quest'ultimo inaudito affronto. Prego dunque l'Altissimo affinché voglia assisterci nel grande mistero dell'iniquità che ci circonda e conceda a vostra signoria di resistere contro chi si dice difensore della Santa Chiesa di Roma, mentre non si fa scrupolo di concedere alla sua immonda soldataglia di devastarla. Infedeltà, sinceramente mi raccomando baciando le mani. Di Augusta, il giorno 10 di giugno dell'anno 1527, il fedele osservatore di vostra signoria.